Ingrid. Aveva appeso la borsa e la giacca a un gancio del bancone e aveva ordinato un analcolico. La taverna Brillo era piena di giovani di tendenza in abiti alla moda. Grazie allo specchio del bar, riusciva a tenere sotto controllo l'intero locale alle sue spalle. A uno dei tavolini rotondi era seduta Julia Wahlberg con due amiche, in camicetta bianca e gonna blu scuro. Ogni tanto qualcuno si avvicinava, scambiava qualche parola e spesso finiva per farsi un selfie con Julia, che sembrava divertirsi ed essere gentile con tutti, anche se ovviamente Ingrid non poteva sentire cosa dicevano. Aprì il browser del cellulare e digitò il nome di Julia. Tanto valeva sfruttare il tempo facendo qualche ricerca. Il problema era che non aveva idea di cosa fare dopo. L'avrebbe affrontata? Le avrebbe chiesto come aveva potuto mettersi con un uomo sposato? Julia Wahlberg, lesse, era cresciuta a Borås, ma si era trasferita a Stoccolma per studiare giornalismo alla Kageholms Folkhögskola. Mentre era ancora all'università, aveva aperto un canale YouTube in cui si occupava di politica, ed era stato quello ad attirare l'attenzione dell'Aftonpressen, che l'aveva subito assunta al suo canale televisivo. Risultava residente in Bergskundstrand a Södermalm. Ingrid sollevò lo sguardo e lo posò sulla giovane donna, bevendo un sorso del suo analcolico. Sapeva che faccia aveva la moglie del suo amante? Si sistemò i capelli allo specchio, prese la borsa e la giacca e si alzò, per poi dirigersi verso il tavolo di Julia, senza degnarla di uno sguardo, ma con il cellulare discretamente puntato verso le tre donne. Poi voltò a sinistra ed entrò in bagno. Aveva le gambe molli e il cuore che martellava. Con mano tremante fece partire il filmato che aveva appena registrato, senza farsi notare. La reazione della giovane giornalista le strappò un sorriso. Julia aveva spalancato gli occhi e dato una gomitata all'amica, indicandole chi stava passando. Ingrid si sedette sul water e fece qualche goccia mentre rifletteva sulla prossima mossa. Erano le 11 passate, era fuori da 2 ore, e non sapeva se Lovisa fosse ancora a casa da sola. Sarebbe dovuta rientrare, ma voleva restare vicino a Julia, capire cosa ci trovava Tommy di tanto interessante da mettere a rischio tutta la sua vita. Uscì dal bagno e tornò al bar facendo un percorso diverso, appena in tempo per vedere Julia che salutava le amiche e usciva. Dopo aver aspettato mezzo minuto, la seguì. Fuori pioveva a dirotto. Ingrid corse verso la macchina parcheggiata davanti al parco di Hummel Garden. Proprio mentre saliva, le arrivò un messaggio sul cellulare. Mise in moto, uscì in Birger Jarlsgatan e lesse il messaggio di Tommy. «Sei a casa?» Ingrid sorrise. Evidentemente Julia lo aveva chiamato, dicendole di averla vista nel locale. Mentre svoltava prima in Kungsgatan e poi verso il Central Bronn, digitò la risposta. «Dove altro dovrei essere?» Poi posò il cellulare sul sedile del passeggero e si concentrò sulla guida. I tergi cristalli si muovevano frenetici sotto il diluvio. Con un po' di fortuna, sarebbe arrivata a casa di Julia prima di lei.